La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al volume In ricchezza e povertà, il benessere degli italiani dall'unità ad oggi, edito da Il Mulino. Ospite ai nostri microfoni Giovanni Vecchi, autore del volume e docente di economia politica dell'Università Tor Vergata di Roma. È il marzo del 1861. Immaginiamo questo dialogo. I protagonisti sono Camillo Benso Conte di Cavour, presidente del Consiglio del neonato Regno d'Italia, Henry Temple, terzo visconte di Palmerston e primo ministro di Sua Maestà Britannica, e l'arcigno Otto von Bismarck, cancelliere del re di Prussia e tra breve dell'impero. Cavour si rivolge ai suoi autorevoli interlocutori e lancia una scommessa. Scommettiamo che tra 150 anni l'Italia avrà un livello di benessere medio simile a quello dei vostri paesi? La domanda sorprende non poco Temple e Bismarck, che rispondono con un sorriso. Caro Conte di Cavour, crediamo che non sia proprio il caso di puntare una sola bottiglia di Barolo sulla possibilità di un successo di tale portata per un paese che fino a qualche anno fa era diviso in stati e staterelli. Sono trascorsi 150 anni da questo dialogo immaginario che apre il volume In ricchezza e povertà, il benessere degli italiani dall'unità a oggi di Giovanni Vecchi, appena pubblicato dal Mulino. E quella scommessa, almeno quella, potremmo dire, Cavour l'ha senz'altro vinta. L'Italia ha fatto passi da gigante, pur tra mille contraddizioni che scontano prima di tutto un persistente grave divario tra il nord e il sud del paese. Giovanni Vecchi insegna economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Buonasera, professor Vecchi. Buonasera. Comincerei con alcuni dati riportati nel libro che ci illuminano sul percorso compiuto dal nostro paese in questi 150 anni. In un secolo e mezzo, il reddito medio degli italiani è cresciuto di quasi 13 volte. Poco più degli Stati Uniti, Francia e Germania, ma meno di Spagna e Irlanda. Le condizioni di partenza erano di estrema arretratezza per effetto della secolare divisione politica. Si trattava di recuperare il terreno perduto, considerato che nel 1861 l'italiano medio poteva aspettarsi di vivere meno di 30 anni e che il censimento del 31 dicembre di quello stesso anno contò ben 17 milioni di analfabeti su una popolazione di 22 milioni di abitanti. 80 persone su 100 non erano in grado di leggere e scrivere. Stando al censimento del 2001, meno di 2 persone su 100 sono risultate analfabete. Dall'unità ad oggi, il tasso di povertà si è ridotto a livello nazionale di 10 volte. Ma se nel 1861 un abitante del Sud aveva una probabilità superiore del 50% di essere povero rispetto a un cittadino del Nord, oggi questa stessa probabilità risulta ancora più elevata. Se dal 1861 il PIL per abitante italiano è aumentato di 13 volte, da due decenni l'economia nazionale avanza alla velocità dello 0,6% annuo, un passo assai lento che richiede 125 anni perché il reddito medio raddoppi. Allora, professor Vecchi, passi da gigante dunque, ma all'interno di un paese che resta fortemente duale e che di fatto da due decenni, come viene documentato nel volume, è fermo. Allora, ci racconti quali sono gli elementi di novità di questa imponente ricerca che è stata realizzata per la prima volta attraverso l'esame addirittura di 20.000 bilanci familiari. È così, professore? Sì, è così. Che l'Italia sia stata la storia di un successo era un fatto parzialmente noto. In termini di PIL per abitante, come avete richiamato, siamo riusciti a raggiungere i paesi alla frontiera e quindi abbiamo giustamente buoni motivi per festeggiare questo 150esimo. Quello che non conoscevamo riguarda la distribuzione di questi progressi, a chi ha beneficiato di questi aumenti del reddito medio, perché come noto insomma l'italiano medio non esiste, esistono tanti italiani diversi. E allora la ricerca ha cercato di colmare questa lacuna, abbiamo raccolto circa 20.000 bilanci di famiglia che hanno consentito di rispondere alla domanda chi ha guadagnato e a chi ha perso. Siamo riusciti a concludere, dati alla mano, che nel corso di 120 anni l'Italia è riuscita a crescere e a distribuire a tutta la popolazione, i frutti di questa maggiore crescita, fino agli anni 90. Negli anni 90 si registra una svolta molto netta in cui ai problemi di crescita a cui lei faceva riferimento, il paese non riesce più a crescere, questo ormai è un mantra di cui tutti i giornali parlano in maniera giustamente ossessiva, ma oltre a questo sono aumentate le disuguaglianze nella distribuzione dei redditi. Quindi poca crescita, disuguaglianza in aumento significa anche povertà, vulnerabilità economica e un'insicurezza al quale lo Stato sociale riesce solo in parte a far fronte. A questo proposito, professore, nella ricerca è contenuta una sorta di provocazione, possiamo definirla così, lanciata dagli autori. A che punto sarebbe lo sviluppo dell'Italia se il Mezzogiorno nel percorso post-unitario fosse cresciuto allo stesso ritmo del Centro-Nord? Già perché quando poi noi parliamo anche di statistiche, di medie sulla crescita, dobbiamo tener conto appunto che il nostro è un paese duale e che ha accentuato il suo dualismo negli ultimi decenni. È così, questa è una questione di straordinaria rilevanza. L'esistenza di una questione meridionale è cosa nota, non l'abbiamo certo scoperta noi in questo volume. Quello che noi riusciamo a fare è misurare, e quindi riusciamo a dire esattamente la direzione e l'entità di questo divario. E quello che emerge è una persistenza sbalorditiva. Sono 100 anni, occorrono per debellare i divari nelle metriche più semplici, quelle dell'istruzione elementare. I divari nel costo della vita, sappiamo tutti che il livello medio dei prezzi è diverso da Bolzano rispetto a Potenza, ma ancora non abbiamo un senso delle misure. Ecco, in questo libro le misuriamo e scopriamo che queste misure non si chiudono, ci sono motivi che impediscono a questa forbice di chiudersi e la ritroviamo con una persistenza che conferma questa immagine di un paese che non riesce a coniugare, diciamo così, la crescita a una riduzione delle differenze territoriali. Eppure, professor Vecchi, alcuni elementi effettivamente ci confermano che l'Italia ha compiuto passi da gigante. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, subito dopo l'unificazione, 80 persone su 100 non erano in grado di leggere e scrivere. Allora la popolazione era composta da 22 milioni di abitanti. Il censimento del 2001 mette in luce che meno di 2 persone su 100 sono risultate analfabete. Dunque, da questo punto di vista, come dire, il risultato è spettacolare nell'arco di un periodo di tempo lungo, ma poi alla fine nemmeno tanto. Il risultato è notevole, senza dubbio. E il tasso dell'istruzione non è forse l'esempio più brillante nel caso dell'Italia, io forse lo additerei anzi un po' come quello che desta maggiore preoccupazione. È vero, abbiamo sconfitto l'alfabetismo, ma le sfide del futuro riguarderanno livelli dell'istruzione superiore, livelli, diciamo così, dopo le scuole secondarie, e da questo punto di vista l'Italia presenta un ritardo significativo. Abbiamo invece motivo di celebrare sul fronte della salute, sì. Su questo fronte l'Italia ha compiuto progressi che altri paesi non sono riusciti a compiere. Infatti, a questo proposito, nel libro è ben documentato che l'aumento dell'aspettativa di vita è la conquista certamente più importante di questi 150 anni. Con un'aspettativa media di 82 anni, l'Italia ormai è al quarto posto nelle classifiche internazionali. Però questo, lo chiedo a lei da economista, con enormi problemi legati alla definizione di un sistema di welfare che sia all'altezza del progressivo invecchiamento della popolazione. E qui si apre, diciamo, tutto un capitolo sulle sfide cui lei faceva riferimento poc'anzi. Sì, ha ragione, questa è una considerazione molto importante. Noi oggi facciamo bene ad essere fieri ed orgogliosi di questa longevità raggiunta, abbiamo raggiunto appunto il Giappone quasi in termini di speranza di vita, abbiamo una buona qualità della vita negli anni anche della vecchiaia. Ciò che tuttavia è motivo di celebrazione oggi può non esserlo domani, nel senso che una popolazione che invecchia pone dei costi, pone un problema di sostenibilità al quale il paese deve iniziare a riflettere oggi, attrezzandosi, perché sì, la longevità, soprattutto in termini di buona qualità della vita, costa e il costo va pianificato e sopportato dalle generazioni che sono attualmente economicamente attive. A proposito appunto delle sfide e delle sfide che questo libro lancia alle generazioni future, qual è il messaggio prevalente che emerge e che si può rilanciare oggi facendo, come dire, attraverso il vostro libro un bilancio complessivo di questi 150 anni? Sì, forse mi sembra che ci sia due corde che suonano chiaramente all'esito per sintetizzare questo volume. Da un lato un senso di avere conseguito, aver percorso una strada molto virtuosa che colloca l'Italia all'avanguardia nello scacchiere internazionale di oggi. Dall'altro avere la piena consapevolezza che quanto raggiunto non è qualcosa che si possa considerare come conseguito in maniera permanente. Le stime che abbiamo della probabilità che una parte significativa della popolazione incontri difficoltà economiche l'anno prossimo, cioè proprio l'anno successivo, sono ampie, mostrano con chiarezza che sono oggi le decisioni che vanno prese per ridurre questa vulnerabilità che è tanto percepita e che si legge anche nei dati. Quindi quello che abbiamo conseguito non lo è per sempre, è bene pensare ora a cosa fare, perché i dati stanno già mostrando un ampliamento dei divari anche negli indicatori della salute, e quindi queste spinte federaliste che sono ormai parte del processo di trasformazione del paese devono guardare questi dati per mettere in atto i contrappesi del caso, perché queste disuguaglianze stanno ampliandosi vistosamente. Grazie professor Vecchi e buona serata. Grazie a voi.